rieccoci, ben ritrovati e ben ritrovate alla Fuga del Gatto. Chissà se mi sentite, come sempre un po' di problemi nella Wombat caverna, nella Wombat regia, boh, forse meglio, chissà, io non ci capisco molto. Oggi domenica 13 gennaio del 2019, prima puntata, giusto? Prima puntata dell'anno. Ora c'è un lapsus, non mi ricordo più se ne abbiamo già fatta un'altra. Beh, in ogni caso, comunque è la prima puntata da sola che vi faccio io, perché la mia compara Virgi, ahimè, è stata colta dalla peste nera dell'influenza, e quindi purtroppo tocca fare così, che mi tocca sopperire e esserci io e tenervi compagnia da sola. Quindi insomma spero che vi basti la mia presenza, ma per fare insomma del mio meglio ho preparato una bella opera per voi, una soap opera, un ciclo soap opera torna alla Fuga del Gatto. E beh, torna anche se non sarà una vera e propria soap opera come abbiamo fatto le altre volte, insomma vi ricorderete, con tutti i racconti, tutte le cosette, no? Questa volta sarà un pochino più soft, perché quest'opera è un'opera innanzitutto piuttosto sconosciuta, un'opera antica come vi potete aspettare da me, ed un'opera che come trama, ecco, non è che c'è proprio tutti questi colpi di scena e grandi cose, accadimenti, gente che si ammazza, che poi si risuscita come siamo abituati, insomma, poi dopo nelle opere successive. È un'opera dalla trama piuttosto lineare, e quindi io ve la racconterò velocemente e poi vi racconterò un pochino anche di che cos'è quest'opera, di qual è l'autore, insomma di cosa parliamo, e poi vi lascerò l'integrale, l'opera per intero, che comunque dura circa 49 minuti, quindi insomma è un'opera in realtà piuttosto breve, e che quindi vi voglio far apprezzare e ascoltare da soli per intero, ecco, senza le mie ingerenze, senza le mie intromissioni. Allora, l'opera in questione è Venus and Adonis di John Blow, Venere ed Adone appunto in italiano. John Blow fu maestro di Purcell, compositore inglese dell'epoca rinascimentale, inizio quasi barocco, 1600, cioè fine 1600, ecco, quindi insomma diciamo che il rinascimento ormai era bello che è andato, ma insomma se ne sentivano molti echi, come vedremo. Blow fu maestro di Purcell, si diceva Purcell, insomma l'abbiamo citato più spesso, molto spesso, la Fuga del Gatto. Harry Purcell, compositore anch'esso inglese, meraviglioso, apprezzatissimo all'epoca e poi anche nei secoli a venire. Purcell gli successe poi a Blow, insomma prese il suo posto a corte, ma ahimè poi Purcell morì, come sappiamo, precocemente, e quindi il povero Blow fu tristemente costretto a riprendere il suo posto, insomma a succedere a sua volta all'allievo, dedicandogli peraltro la sentita ode sulla morte del signor Harry Purcell, una bellissima ode. E dico tristemente perché non c'era assolutamente gelosia, invidie o quant'altro, i due erano molto legati e c'era una stima reciproca molto stretta tra maestro e allievo. Peraltro Venus and Adonis, l'opera che ci ascoltiamo oggi, fu l'ispirazione per il ben più noto in realtà Dido and Aeneas di Purcell, l'opera di Purcell. Allora, Venus and Adonis è un'opera in tre atti, anche se come abbiamo detto sono tre atti appunto molto corti, insomma non pensate alle opere poi successive che durano ore e ore e ore. Fu scritta a corte e dedicata all'intrattenimento del re, proprio così, letterale. Il re a quel tempo era Carlo II Stuart. È l'unica composizione per teatro che ci rimane di Blow, in realtà purtroppo non ci rimane moltissimo. Nonostante insomma di musica ne abbia scritta molta e bellissima, ma ahimè purtroppo ci è arrivato un po' poco repertorio, e questa è l'unica opera e comunque l'unica composizione per teatro che siamo riusciti a salvare. Questa opera è definita a Musk, quindi se vi ricordate ne avevamo già parlato nella puntata scorsa riguardo al King Arthur di Purcell, per l'appunto. Musk, ovvero una semi-opera ricca di effetti scenografici e effetti speciali, diremo adesso, ma in realtà questa qui, Venus and Adonis, è una vera e propria opera musicata per intero. Non ci sono le scene cantate che invece c'erano nelle altre Musk. È una delle prime opere inglesi, peraltro, e non si conosce l'autore del poema drammatico, quello che poi funge da libretto. La prima rappresentazione è circa del 1683 e insomma quest'opera, beh, già dal titolo capirete, Venere e Adone, è molto, insomma, è ovviamente ripresa dal mito di Venere e Adone, diverge dalla versione shakespeariana peraltro, e invece è fedele alla Metamorfosi di Ovidio, quindi alla narrazione che ne fa Ovidio di questo mito. Adone è l'amante mortale di Venere, come forse vi ricorderete, e nel prologo di quest'opera c'è una classica scena arcadica dove Venere corre nella foresta in un'atmosfera tipicamente rinascimentale, appunto, o classica potremmo dire, con la sua tutta la leggerezza, l'ambiguità, appunto, che contraddistingue un po' questa cultura. Cupido, per esempio, in una delle prime scene si rivolge ai pastori dicendo: cortigiani, in voi non esiste fedeltà, sempre che potete cambiate, e le vostre donne restano fedeli fin tanto che non ne trovano un altro. A corte rinvengo costanti e fedeli solo uno o due vecchi. Nel secondo atto si celebra la visione filosofica un po' dell'amore e della giovinezza, anche questo abbastanza un topos della cultura rinascimentale, umanistica dei secoli precedenti, ma anche di quel periodo lì. C'è un dialogo lungo, articolato e molto complesso, divertito anche, tra Venere e il figlio Cupido. Ma nel particolare l'opera a un certo punto inizia a dipanarsi, perché insomma, al di là delle scene, che fondamentalmente i primi due atti sono atti un po' dove non succede molto, non è che c'è molta azione, ecco, c'è più una descrizione, uno scambio di vedute e di, diciamo, che serve un po' a contestualizzare e a far entrare in questa fiaba, ma poi inizia a esserci la vera e propria trama. Appunto, a Venere si innamora di Adone perché colpita, ferita accidentalmente da Cupido, dal figlio stesso, appunto, con una delle sue frecce, perché una delle versioni, appunto, quella di Ovidio, dice che Cupido dà un bacio alla madre, a Venere, e nel farlo, per sbaglio, inavvertitamente la sfrega, insomma, la ferisce con una delle sue frecce, e quindi lei si innamora di Adone. Insomma, un mortale, quindi con tutte le difficoltà che sappiamo esserci in questi casi, insomma, i miti sono pieni di questo tipo di situazioni. La dea va a caccia, parte questo idillio tra, appunto, Adone, un cacciatore mortale, appunto un idillio, parte tra Venere e Adone. La dea si diverte ad andare a caccia con lui, però lo avverte a un certo punto che dovrebbe cacciare soltanto gli animali non pericolosi, ed evitare i leoni e i cinghiali. Diciamo, dovrebbe fare un po' il codardo, ecco, va a cacciare le cose piccole, quelle che non si sanno difendere, non te la rifare con quegli animali che poi ti fanno, insomma, ti fanno il culo, dai, tanto poi non ce la fai contro di loro. E quindi cerca di evitare di farlo andare verso il pericolo. Ovviamente cosa succede? Che Adone non le dà ascolto, e nonostante i suoi avvertimenti, va a caccia lo stesso e durante una battuta di caccia viene ucciso proprio da un cinghiale. Venere lo raggiunge quando ormai è troppo tardi, quando è morto, disperata davanti al corpo di Adone morto, corpo che fra l'altro nell'arte insomma ritroviamo un po' ovunque, questa figura dell'Adone che giace in terra morto e che ricopre di sangue la terra. Ecco, Venere davanti appunto al corpo di Adone morto trasforma il sangue di Adone in un fiore, il sangue rosso di Adone in un fiore, l'anemone, e annuncia che ogni anno Adone verrà ricordato tramite una festività che poi prenderà il nome appunto proprio da lui, le feste Adonie. Questo è il mito triste, di cui peraltro è piena la storia, l'arte, non solo nella musica, ma sicuramente ecco, nella musica questo è un esempio, ma ce ne sono molti altri, ma anche nell'arte pittorica, nella scultura, insomma ce n'è un bel po'. E, venendo invece all'opera vera e propria, alla musica, Blow ne fa una, lo sentirete, vi sarà molto familiare perché ve l'ho fatto un po' sentire ormai nel corso di queste puntate della Fuga del Gatto, ve l'ho un po' fatta sentire spesso opere di questo tipo, composizioni di questo tipo, tipicamente del 600 inglese. Ci sono molti rimandi peraltro alla musica francese, lo sentirete per esempio il prologo che è un'ouverture alla francese in perfetto stile Lully. E non ci sono arie ben riconoscibili, come si troverà poi invece sempre nella tradizione operistica degli anni a seguire. La musica invece è un flusso continuo di voci e strumenti mai interrotto, il che rende ancora meglio questa idea di fiaba e un po' di Arcadia, ecco, tipica dell'epoca rinascimentale e poi dopo anche del 600. Lo sentiamo questo, la sentiamo quest'opera, questa composizione nel rendimento che hanno fatto il London Baroque Ensemble diretto da Charles Medland. Ci sono tre protagonisti canori che sono Cupido, Venere e Adone, non ci sono altri personaggi, beh sì ci sono i pastori, ce ne sono tanti, ma insomma in particolare i tre fondamentali sono Cupido, Venere e Adone, due soprani e un basso. Cupido in questo caso nella registrazione che ci stiamo ascoltando è interpretato da Nancy Argenta, soprano, e Venere da Lion Dawson, soprano anch'essa, e Adone invece un basso, Stephen Verco. Vi ricordo, siccome poi adesso vi lascio alla musica e all'opera intera, vi ricordo anche i social Wombat, visto che non l'ho fatto all'inizio, in particolare il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta che a questo punto ormai dovreste conoscere, ma io ve la dico lo stesso, posta wombat@insiberia.net. Insomma, aspettando che la povera Virgi ci raggiunga nelle prossime puntate di nuovo sana come un pesce, vi do appuntamento quindi a domenica prossima, ma vi lascio in questa, spero, piacevolissima compagnia del Venus ed Adonis di John Blow e vi do appuntamento appunto a domenica prossima. Ciao ciao! Thank you. Thank you. Love Thank you. Oh! Thank you. Love's faithful kingdom to